Naum. Oracolo riguardante Ninive. Libro della visione di Naum, l'Elcoscita. Il Signore è un Dio geloso e vendicatore, ricco di collera. Incede nel turbine e nella tempesta, e le nubi sono la polvere dei suoi piedi. Minaccia il mare, lo asciuga e fa seccare tutti i fiumi. Basan e Carmelo inaridiscono e la vegetazione del Libano appassisce. Le montagne tremano davanti a lui e le colline vacillano. La terra si scioglie davanti a lui, il mondo e tutti i suoi abitanti. Per il suo corruccio, chi potrebbe sostenerlo? Chi resisterebbe all'ardente sua collera? Il suo furore divampa come fuoco e le rocce si sgretolano davanti a lui. Il Signore è buono per chi confida in lui, una fortezza nel tempo dell'assedio. Il Signore conosce chi si rifugia in lui e al sopraggiungere dell'inondazione li scampa. Stermina chi insorge contro di lui, perseguita i suoi nemici fin nelle tenebre. Non sorgeranno due volte i suoi avversari, ma saranno distrutti fino alle fondamenta. Che trame ordite contro il Signore? Egli le farà andare a vuoto. Il Signore fa la vendetta contro i suoi avversari, si infiamma contro i suoi nemici. Saranno annientati come spine, saranno del tutto divorati come arida paglia. Da te è uscito colui che trama malvagi disegni contro il Signore. Ora io spazzerò il suo giogo di dosso a te e romperò le tue catene. Sentenzia il Signore a tuo riguardo, o uomo dai disegni malvagi. Renderò il tuo sepolcro ignominioso, perché sei maledetto. Il tuo nome non sarà più ricordato, né sorgerà più da te una stirpe. Saranno rimosse le immagini scolpite e fuse dal tempio delle tue divinità.